tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. E oggi parleremo di misfatti del clero, notizie varie anticlericali e disgrazie del clero. Iniziamo da Sicilia Libertaria, fatta a Ragusa, dalla rubrica Al di qua Fratelli Coltelli, dove si parla dello scandalo del cardinal Becciu. Quello in atto è un conflitto in cui non sono stati sparati ancora tutti i colpi. L'armamentario è talmente forte che si teme che le mura vaticane potrebbero subire una nuova breccia di Porta Pia. Un dio inutile e perverso, ma con tanti followers. Questa è la definizione del Vaticano. Dalla Polonia, aureola colorata, attiviste polacche a rischio carcere. Da Fatto Quotidiano del 13 gennaio. Dopo il rinvio della prima udienza a novembre, inizia oggi il processo contro tre anticlericali polacche che avevano in senso satirico esposto una icona della Madonna con un'aureola arcobaleno. Notizie ancora anticlericali da Varese. Distrutta la statua della Madonna, scempia Villa Milius, i pezzi della scultura in gesso ritrovati sotto gli alberi. Dalla Prealpina del 13 gennaio 2021. Amara sorpresa del clero locale. Su Rai Storia, bel documentario su Tarchini e Montanari, patrioti ghigliottinati dal governo papale. Giovedì 14 alle 14. Su Rai Storia, giovedì 14 invece alle 17.30, un bel servizio contro Pio IX e i suoi crimini mostruosi. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Passiamo ora alla Repubblica di domenica 10 gennaio. Sono accusati di crimini contro l'umanità per gli orrori commessi dalle dittature militari di 40 anni fa in Argentina e Uruguay. Si nascondono in Italia, ecco dove, e protetti da chi? I fuggitivi. E qui si parla del solito prete, il prete fascista. Don Franco Reverberi, sacerdote accusato di aver assistito alle torture dei detenuti in un campo di sterminio. 1.003 i condannati per i crimini finora in Argentina. Buscado, 500.000 monete argentine, i pesos argentini. Allora, con la Bibbia in mano, lui assisteva alle torture e induceva i poveretti a confessare. E era sempre presente Don Franco, è stato denunciato da vari sopravvissuti. Negli ultimi anni il caso di Don Franco è tornato spesso agli onori della cronaca. Parroco ricercato dall'Interpol. Arturo Salerni, nel caso Reverberi, è stata fatta una causa civile in Cassazione. Insomma, qui un lungo articolo che parla di questo maledetto prete. Abbiamo poi Calabria. Prete positivo al Covid fa bere a decine di fedeli dallo stesso calice, 27 dicembre 2020 da Fanpage. Un sacerdote della cattedrale di Lungro, Cosenza, ha fatto bere decine di fedeli dallo stesso calice durante un'eucarestia, nonostante fosse positivo al Covid-19. La storia della monaca che si finse morta per dedicarsi ai piaceri della carne, sempre dalla rivista studio.com, e si ricorda un caso del 1300, questa suora che per scappare dal convento si finse suora. Dalla Repubblica del 9 gennaio si parla di questa povera donna, povera ragazza, chiusa nel convento in Messico nel 1500, che comunque riuscì a fuggire dal convento e circolò travestita da uomo per lunghi anni per non essere presa. Una storia proprio di monacazione forzata. Arrestato Don Felice La Rosa, il prete faceva sesso con un sedicenne. Da Kenenews.it, 10 settembre 2020. Nuovo arresto per il prete pedofilo di Zungri in Calabria. Prete indagato per abusi su minore nel Casertano, sospeso a 24 ore dalla messa di Natale. Da fanpage.it, 24 dicembre 2020. La diocesi di Teano Cavi Caserta ha sospeso il parroco di Presenzano, Gianfranco Roncone, dopo aver saputo di un'indagine a suo carico della procura di Napoli. A Caspesie, o un nome simile nel Quebec in Canada, un anziano prete arrestato per aggressione sessuale avvenuta un po' di anni prima, quando era più in forma. Abbiamo poi la strage di Bologna, perché sono stati pubblicati i motivi della sentenza, il solito Licio Gelli, questo clerico fascista, mandante della strage. Abbiamo poi, sempre sul Fatto Quotidiano, quello prima era Il Giorno, sempre sulla strage di Bologna, appunto, si parla appunto delle responsabilità dei servizi segreti e quindi della Democrazia Cristiana, in quanto scudo crociato al fascismo di Stato. Tutti questi fascistoni infilati nei servizi segreti erano stati messi lì dai ministri della difesa e degli interni democristiano. Una strage di Stato. L'assalto al Congresso degli Stati Uniti spacca la Chiesa USA. Vediamo chi lo dice. La Repubblica dell'11 gennaio, pagina 14. Votare Biden era un peccato mortale. Uscite pro Trump dell'ex nunzio a Washington. E quindi si parla delle complicità dei settori della destra clericale con l'assalto dei fascistoidi al Campidoglio. Negazionisti, la balla del golpe a Capitol Hill, i cattolici di destra in difesa dell'amato Donald. Questo è Fatto Quotidiano dell'11 gennaio. Poi abbiamo su informazione.it, Vaticano, 13 gennaio 2021, licenziamenti durante il lockdown, via due maestri cantori della Cappella Sistina. Invece di venire incontro ai poveri disoccupati, ecco che la Chiesa fa le licenzia. Pavia, motivazione della sentenza contro un leghista filo crocifissi assassino che aveva ammazzato la sua amante a Pavia. Dalla Repubblica del 13 gennaio 2020, pagina 17, l'Irlanda chiese scusa per i bimbi morti nelle case famiglie e si parla di perverso moralismo religioso e del famoso film Filomena, che parla appunto di queste brutture clericali. Rilanciare l'anticlericalismo, avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni. Qualche breve cenno alle disgrazie clericali. La Spezia. Fiamme in casa per un cortocircuito alle luci dell'albero di Natale, feriti due vigili del fuoco. Chiude il convento delle Clarisse di Bienno in Val Camonica. Francescane in crisi. Da Giallo, del 20 gennaio, prete italiano picchiato a morte, religioso di origine italiana ammazzato in Venezuela dai ladri, sembrerebbe. Passiamo poi ai detti anticlericali, arrivo subito che metto un po' a posto, e abbiamo dunque il disgusto per le vicende parrocchiali mi soffoca, i miei superiori non mi piacciono, non trovo in essi né genio né virtù né giustizia, aborrisco la sacrestia. Abate Mounier e un abate francese 1853-1944. Invece Engels 1820-1895, il cristianesimo è diventato sempre più possesso esclusivo delle classi dominanti e queste lo impiegano come mezzo di governo per mantenere sotto il giogo le classi inferiori. Abbiamo poi l'ex prete Ernesto Buonaiuti, scomunicato. La prosa fredda e cautelata dell'Osservatore Romano mi fa semplicemente nausea. Per tutto il periodo fascista la Santa Sede ha dato palesemente prova di codardia e di banalissimo opportunismo. Passiamo ora brevemente al dizionario di terminologia atea anticlericale cristiano. Seguace degli insegnamenti di Cristo finché questi non contraddicono i peccati di cui indulge più volentieri. cristicoli, termine dispregiativo contro i cristiani usato da Voltaire. Cristomania paranoica fu quella di Agostino da Ippona, che costruì una mostruosa fabbrica dommatica totalizzante, da Gianni Grana, fondatore dell'UAR. Passiamo poi al mio calendario anticlericale con qualche data. 18 gennaio 2019. Durante una cerimonia religiosa in costume d'epoca a Saronno Varese si impenna un cavallo, un fedele ferito. Disgrazie clericali. 18 gennaio 2019, già detto. 19 gennaio 2019, Don Luigi Larizza, estremista di destra anti-migranti, vince l'appalto per i richiedenti asilo a Taranto. I soliti favorismi e privilegi clericali. 20 gennaio 2019, maltrattamenti ai bimbi nel coro della Cappella Sistina, silurato il direttore. 21 gennaio 2017, al Collegio Clericale San Carlo di Milano, bimba aggredita dai suoi compagni, costola incrinata, ma cosa gli insegnano nelle scuole dei preti? 22 gennaio 2019, sacerdote arrestato per abusi sessuali ad Antiochia in Colombia. Sabato 23 gennaio 1858, boia pontificio al lavoro a Subiaco, Roma, decapitato per reati comuni Serafino Ciucci. Ci ricorda la pena di morte che è sempre esistita nello Stato della Chiesa. Bene, saluti a tutti, ricordo il sito del Circolo Giordano Bruno di Milano, www.giordanobrunomi.wordpress.com, chi volesse il calendario anticlericale, info@sicilialibertaria.it. Per contatti con Pierino, telefono 331 730 2874.